scriveranno, ti chiameranno, io ti sento certo, anche a Radio 24 a tutti convocati, eh. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mentre ascoltiamo ancora gli Eagles of Death Metal, che tutti ormai conoscete come più degli U2 o forse dei Rolling Stones in questi giorni. Mentre li riascoltiamo e mentre leggo siti e notizie, mi viene da pensare che finché ci si picchia selvaggiamente a un derby di ragazzini di 10 anni, derby che poi cosa vuol dire derby? Una partita di ragazzini che fosse Torino-Juventus a Borgo Manero Profondo Nord, finché ci si picchia selvaggiamente al grido di negra torna a casa tua, il che accade domenica, mi viene da pensare che non andiamo da nessuna parte. Buongiorno Pierluigi Pardo. Buongiorno, guarda, ho twittato una roba stamattina e mentre twittavo pensavo, ho fatto un concetto sul tempismo, sapendo anche che questa cosa poteva essere talmente considerata attaccabile, no? Perché uno dice non è che esiste un giorno nel quale invece si possa scherzi. Poteva anche, però voglio dire, il giorno dopo quello che è successo, insomma, noi dovremmo avere tutti, non lo so, forse siamo strani noi, ci dovrebbe essere un filo più di serenità, di solidarietà, di... Ma che sta dire? Ci piace un sacco piangere, spendere un sacco di demagogia o magari anche di odio a parole, poi... ovviamente in maniera sbagliata, e poi negra torna a casa tua, bim bam, e ci si picchia un derby di bambini, ma comunque è una partita di bambini. Vabbè. No, ma adesso, siccome adesso ricomincia il campionato, devo dire che anche con dei metodi, in qualche caso anche un po' da stato di polizia, diciamocelo apertamente, con delle sospensioni delle libertà e dello stato di diritto, perché insomma alcune cose, dalla testa del tifoso a tutta una serie di provvedimenti che, sai, non mi trovano d'accordo, le curve in certi casi chiuse, squalificate, in molti casi divise, la questione di Roma, i tifosi che proprio nella quotidianità, i tifosi ospiti che rimangono due ore nel settore, sono tutte limitazioni dello Stato di diritto, no? Però con questi anche grazie a questi strumenti bisogna riconoscere che il clima è un pochino migliorato, senza illuderci troppo negli stadi. Ecco, io adesso spero che dopo quello che è successo ci sia... veramente, cioè che ci si renda conto dell'assurdità, proprio della banalità. Sono comportamenti individuali, al di là delle limitazioni di libertà individuali, dei provvedimenti, dei decreti, delle leggi più o meno d'urgenza, è una questione individuale. Un eventuale, cioè, qualsiasi rissa, qualsiasi tafferuglio, che poi oltretutto avrebbe anche una funzione in questo momento, secondo me, doppiamente pericolosa, perché se c'è un momento nel quale i nostri agenti, le forze di polizia devono stare concentrati su qualcos'altro, è questo. No? Quindi stare pure a rompergli il caso. Secondo me fa parte dei comportamenti proprio poco civici nel caso. Sarebbe il caso di richiamare, comunque ti ripeto, ai comportamenti individuali, perché probabilmente è da lì che si parte, no? È da lì che parte tutto. Comunque Giorgio De Luca, il nostro autore, Giovanni Melchiori in redazione e Paolo Corleoni in regia, tutto esaurito intanto a Wembley questa sera, tutto bello, esaurito, bellissimo. Lo stadio, e tra l'altro le vendite dei biglietti si sono impennate dopo quanto è successo venerdì, e questa sera non ci sarà posto per uno spillo. Stadio vuoto invece a Bruxelles, dove non ci sarà Belgio-Spagna, e poi ne parleremo. Vedremo quanti saranno al Dall'Ara per Italia-Romania, che è un amichevole. C'è Conte, ci ti con l'elmetto. combattere, bisogna combattere contro questi atti inspiegabili, andando avanti, facendo quello che dobbiamo fare, non facendoci intimidire da niente e da nessuno, perché sennò altrimenti la daremmo vinta, ecco, la daremmo vinta al male. Questo secondo me non deve accadere. Queste le parole di Conte, dunque, a proposito dei fatti di questi giorni, ma c'è anche un altro tema che tratteremo poi, ed è quello della strada verso Juventus-Milan. Ieri hanno parlato Marotta e Galliani. Noi sappiamo che stiamo attraversando un momento di difficoltà, Allegri lo ha compreso benissimo, tra l'altro ci sono eccessive critiche nei suoi confronti, non dimentichiamoci che l'anno scorso lui è arrivato in un momento difficile, ha ereditato un testimone pesante e comunque ha dimostrato con la sua grande professionalità di vincere uno scudetto, vincere una Coppa Italia e arrivare in finale di Champions League. Quest'anno è un anno di difficoltà, compito della società è quello di supportarlo nel migliore dei modi. Il mio auspicio è di fare il replay della partita con la Lazio, che ho trovato buonissima. Può garantire che la panchina di Mihajlovic sia saldissima? Posso garantire, ma basta, signori. Allora, ogni giorno della sua vita un leone sa che cascerà una cartella, un sì. Guida Gardiani si sveglia sapendo che ci sarà un giornalista che gli chiederà se la panchina di Mihajlovic è salda o meno, risponderà nello stesso modo. Senti, poi scopriamo anche qualcosa a proposito di un altro allenatore desaparecido, Walter Mazzarri. Sì, volentieri. Il programma della serie speciale Tutti convocati, chi l'ha visto? Intanto 800240024, parleremo anche di un altro argomento che mi fa impazzire. Abbiamo bisogno di allegria, dai, in questi giorni, del tapiro a Zenga con la partecipazione straordinaria, guest star, che però sentiremo dopo, di Cassano e di Ferrero. Intanto un primo estratto di questo tapiro, poi andiamo subito col traffico. Voci di corridoio dicono che anche il signor Cassano andava molto d'accordo con lei. Voci di corridoio, è vero tutto ciò? Ma ogni tanto mi dovresti presentare questo signor corridoio, che io non lo conosco. Cioè, è una roba imbarazzante. Perché basta entrare nella stazione. Andiamo a trovarlo, signor corridoio. Cosa farà adesso in poi, signor Zenga? Andrà a Dubai e poi cosa mi farà? Cerco un'altra squadra in quei posti, perché lì sono, ormai è la mia residenza lì, la mia vita lì. Quindi allenare all'estero, in Italia? Assolutamente. Mai più. Anche mai più, non mi vuole più. Bene, poi parliamo anche della dieta di Higuain, quindi state allacciati, traffico, poi torniamo. 800240024, numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Mentre c'è chi scrive su WhatsApp, a proposito, 349-238-6666 vale per SMS e WhatsApp, e c'è chi scrive che Mazzarri l'ha visto solo il contabile di Toir quando gli fa il bonifico. Per fare il bonifico non serve neanche vedersi di persona, peraltro aggiungo io, ma poi lo scopriamo, cosa sta facendo Mazzarri in questi giorni, così come scopriamo quanti frutti di mare bisogna mangiare per dimagrire 4 kg, ce lo spiegherà non Higuain ma qualcun altro. Questa io, è la dieta, io no, di sicuro, perché mangio frutti di mare ormai da 41 anni, ma... e niente, niente. Ma carne rossa come sei messo? Ti piace? Lo so. Mi piace. Anche sono, a me, pure a me. Sono un appassionatissimo, sono più appassionato di pesce che di carne, però insomma, quindi ce la possiamo fare. Sì, però non è che posso fare il testimone, cioè, credo che quelli del pesce azzurro mi darebbero mai 100 euro per fargli la testimonia. Ma secondo te Nando Orsi come si tiene in forma? Beh, Nando Orsi è straordinario, un uomo straordinario. Beh, c'è? Sì. Ah, ecco. Ciao, come Nando. Va? No, io purtroppo mi sono un po' impaurito, quindi io la carne non la mangio da un sacco di tempo. Ti sei impaurito? Sì, mi sono impaurito. Detto che fa male. No, io no. No, ma la carne fa male, però. Sì, va bene. Però, insomma, mangiata a piccole dosi, insomma, è anche... tanto buona. Madonna mia, è buona, di più è buona. No, per il pesce, adesso poi dopo chiudo, è logico che tu ti mangi un chilo di tartufi, cioè quelli che il colesterolo fa male, ma il pesce... Perché chiaramente la Norsi ha partecipato a alcuni pranzi, quindi sa che il problema non è il cosa, ma è il quanto. Esatto, esatto. È il quanto. Le derrate alimentari. È vero. Senti, Nando, uno dei temi, so che sei, hai delle particolari opinioni sul punto, quindi vorrei entrare subito dritto, non a gamba tesa, però dritto sull'argomento. Uno dei temi sportivi di questi dannati giorni, in cui si parla giustamente d'altro, certo, è del Piero CT. A noi sembra, a me a Pardo, sembra un'idea bizzarra. Io sono d'accordo al 2000% con il mio copilota. Ci piacerebbe del Piero dirigente, magari presidente della Federcalcio, ma del Piero CT a me pare strano. Beh, mi sembra più una provocazione che una cosa. Perché poi dopo noi abbiamo visto, no, per esempio, faccio un esempio, no, come Rob Baggio è diventato presidente lì a Coverciano, non mi ricordo che fece per un po' di tempo, e purtroppo poi dopo non è andata bene, perché non so quali sono stati i motivi. Perché, cioè, questi sono mestieri che non è che ti inventi un giorno all'altro, cioè fare l'allenatore è una cosa seria. Non che Del Piero non sia serio, ma che Del Piero è stato una vita dentro uno spogliatoio, e poi dopo a pensare al giocatore, a pensare. Però poi dopo, quando passi dentro l'altro spogliatoio dove ce ne sono tanto tre o quattro, e soprattutto sei te da solo, perché sei da solo, e lì devi cominciare a pensare a 360 gradi. E secondo me, se non hai l'esperienza adatta, secondo me ti si mangiano, perché poi dopo non sei più Del Piero quello che giocava, sei Del Piero allenatore, e da persona che giudica diventi persona che è giudicata. E sei giudicato dai tuoi ex compagni, ti devono giudicare per quello che... Cioè, non è semplice. Prima di diventare allenatore devi studiare prima, tanto cominciare a fare allenatore, e poi devi fare esperienza. Sì, chiedere a Ciro Ferrara, magari, che ha avuto Del Piero prima come compagno e poi come... No, ma come allenatore. Compagno, ma guarda, come cosa... Del Piero è straordinario come persona. Poi sai, non è facile cambiare il rapporto, non è semplicissimo. Qualcuno ci è riuscito, ad esempio Ancelotti, qualcun anche altro perché, no. Anche perché, ti dico, la cosa più difficile da fare per un allenatore è quando tu hai dei giocatori che sono stati i tuoi compagni di squadra. Appunto. Perché loro pretendono di avere un binario preferenziale per certe scelte. Sì, e che invece non è così. E quindi poi dopo quelli sono i peggiori. Assolutamente comprensibile. Poi ci vuole anche un certo percorso, no, per lui. Guarda, mi è venuto in mente, mentre parlava Nando, una cosa un po' laterale che l'interessato mi permetterà di dire. Cioè, Filippo Galli ha fatto la prima telecronaca di una partita... ai tempi di Sky, credo fosse un quarto di finale di Champions League, un Lione Porto, se non sbaglio, tanti anni fa, e mi ricordo che era giustamente puntiglioso, meticoloso, ma anche piuttosto preoccupato, no? Perché era la sua prima volta. Io, insomma, sono il suo compagno di questo battesimo, e mi ricordo nitidamente che dentro di me pensavo, ma insomma, uno che ha vinto le Coppe dei Campioni, che ha giocato a certi livelli, che ha vissuto di tutto nella vita, insomma, ma può avere così tanta, da un lato perfezionismo, quindi molto positiva, dall'altra anche quest'ansia, questa preoccupazione. Salutiamo e abbracciamo Filippo Galli, che poi fa anche altre cose straordinarie nella vita post-calcio. Però post-calcio è ancora lì. Sì, appunto, post-calcio giocato. Dico, però è esattamente questo il tema. Cioè, Del Piero è un'icona, è stato uno dei più grandi calciatori del secolo. Gli vogliamo tutti bene perché ha un'immagine... Perché se deve andare a rovinare? Dico. No, ma magari se sente che la sua vocazione è quella di fare l'allenatore, come per esempio nel caso di Roberto Mancini, altro grandissimo giocatore che ha voluto fare questo tipo Ancelotti, cioè è pieno il mondo, no? Sì, come è pieno il mondo anche di quelli che hanno fallito, Van Basten e Maradona, i primi due. Ma io ti faccio un esempio, no? Pierluigi ti faccio un esempio. Billy Costa Curta, che ha cominciato nel Mantova, no? Come ha fatto un anno, non so se mesi, poi dopo forse ha capito che non era quella la sua vocazione, perché non è semplice, quindi... Perché ripeto, perché è veramente difficile. Cioè, io penso che è un ottimo commentatore sportivo. Beppe è uno che credo, probabilmente sta ascoltando anche in questo momento, è uno che ha avuto offerte. Certamente è uno che avrà un pezzetto del suo cervello che avrebbe voluto fare l'allenatore poi nella vita. Però ha capito che era un fuori classe nel fare quello che fa adesso. Quindi io credo questo, che è proprio una forma di rispetto per Del Piero. Poi, siccome Del Piero non è, con tutto rispetto, un ex calciatore, cioè Del Piero è una delle 20-30 icone del calcio mondiale, fate voi, stabilite voi il numero, e io credo che abbia plenty of choices, cioè ha una grandissima quantità di scelte possibili davanti a sé, ha un'immagine e secondo me un'intelligenza, una sensibilità di un certo tipo, per cui potrebbe anche fare il dirigente, ecco, l'allenatore della nazionale bruciando le tappe, proprio è l'unica cosa che io non gli consiglierei, certo. perché è una cosa che lo espone su un terreno dove non ha fatto la gavetta e lo esporrebbe facilmente a delle critiche. Non avrebbe moltissimo da guadagnare, ma in compenso tanto da perdere. Molto da perdere. Certo. Ragazzi, credete in un dopo Conte, un dopo europeo con Conte, Nando? Cioè, credi in un possibile rinnovo? Io no. Io non è che io però non è che non credo, io ci spero. Cioè? Perché nel senso che un direttore tecnico, cioè uno come lui, che mi sembra di un'ambizione smisurata, oltre che essere secondo me uno dei più grandi allenatori in Europa, e quindi non esagero nel dirlo, io penso che conoscendo Conte così soltanto come persona molto ambiziosa, io penso che arrivare soltanto all'europeo sarebbe come lasciare a metà un percorso, e siccome lui è uno che se non vince sta male, io penso che invece dovrebbe continuare a fare, anche perché poi la strada del CT è solitamente quella di fare un europeo e un mondiale, sì, il ciclo è quello. Per darti la statura, no, per capire un attimo, poi dopo è ovvio che a Conte gli manca il campo, è uno veramente che deve sentire tutta la settimana i giocatori, sentirli, non gli sono stati dati gli stage, ha un contrasto un po' con la federazione, tutto quanto, però è indubbio che è un allenatore che in questo momento se lascia, io un pizzico di delusione ce l'avrei, pensando che un allenatore è una persona, è un uomo che secondo me ha delle ambizioni. Sì, forse proprio per questo ha ambizioni o idee diverse. Intanto sta costruendo una nazionale. Ma tu pensi che non abbia il tempo di poter andare ad allenare il Manchester United o il coso da qui a 30 anni? Ma non so, Nando, magari i treni passano e magari lui c'ha voglia di acchiapparlo. Certo, può darsi pure. No, Pardo. Guarda, io penso che lui in questo momento, ragionando quindi astratto così sulla teoria, abbia voglia di tornare ad allenare un club e soprattutto, insomma, la sua ambizione, il suo sogno era allenare il Manchester United. C'era stato un contatto con lo United prima dell'arrivo di Van Gaal, quindi allenare un grande club all'estero, io penso che questa sia la sua ambizione. Detto questo, sono d'accordo con Nando, nel senso che da qui all'europeo poi possono succedere delle cose. Se lui non firma, e non credo che firmerà con nessuno prima dell'europeo, poi possono nascere delle dinamiche psicologiche che lo possono portare e si può dire al rilancio, con no? Come va. Sì. Al momento mi sembra 80-20, cioè anche a me, 20, anche a me sembra più o meno così la percentuale. Sì, una cosa che, e poi salutiamo Nando Orsi, una cosa che però a me non convince di Conte e continua a insistere sul punto è che sta costruendo comunque una squadra di, ma l'aveva detto dall'inizio, un po' di soldatini del pallone, però senza gli inventori in una competizione come l'europeo, come un mondiale, in un torneo breve di questo tipo non vai da nessuna parte, e sinceramente Nando, a me Insigne a casa fa venire la pelle d'oca. anche a me però dai, poi motivi Conte disciplinari, ma quello dai, che vuoi, però dai, è un segnale che ha dato adesso, ma sai, un segnale, però adesso stai costruendo la squadra per europei, come lo ricordavamo prima, non ha avuto gli stage ma deve usare ogni secondo che ha. Ma io penso che la squadra Conte degli europei ce l'abbia, io penso che ce l'abbia in testa, e al di là di certe scelte di Insigne adesso che non è stato convocato. Secondo te penso c'è De Rossi in questa squadra? Sì. Secondo me c'è De Rossi, secondo me c'è la vecchia guardia e ci sono quelli che ci sono quelli suoi. Quelli che, cioè Conte, io pensavo che Conte all'inizio dell'anno, quando ha preso il nazionale, facesse un po' una mezza rivoluzione. Invece, dopo, quando ho visto le convocazioni, io ho capito che Conte gioca per vincere, e quindi per come vincere giusto, non puoi fare esperimenti. Allora prendi gli stessi, perché sono quelli sono i giocatori più importanti in Italia. Quindi non ha tempo per fare esperimenti. Secondo me De Rossi ci sarà, come ci sarà Insigne. Speriamo. Grazie Nando. Grazie a voi, ciao, ragazzi. Ciao Nando. Pia, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, c'è già Vittorio da Salerno, e poi vorrei contraddire con Filippo Maria Ricci invece un messaggio che scrive su Belgio-Spagna, che è stata cancellata. Ecco, è questo: fermare Belgio-Spagna per me è un'assurdità, come eventualmente in tema religioso bloccare il Giubileo. No, ci sono in questo caso altre ragioni che spiegheremo dopo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il form dedicato all'evento. Ciao! Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta... Tutti convocati. Tutti convocati, soprattutto Vittorio da Salerno. Allora, sì, la cagnola è con Guccini. Non ho capito, scusa. Ho letto che la cagnola è con Guccini in questo momento. Sentiamo subito la cagnola. Facciamo intervenire il sommo poeta Francesco Guccini. Ma se il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. No, dai, sento benissimo, no? Pronto? Prima bene, prima molto bene, adesso bene. Adesso no? Adesso non benissimo. Ho capito solo due parole, cagnola e Guccini. La cagnola è con Guccini, chiamiamo subito il sommo poeta. Il sommo poeta, ci proviamo. Adesso proviamo a chiamare la cagnola con Guccini. Però prima chiamiamo Vittorio da Salerno mentre proviamo. Buongiorno Vittorio. Pronto, buongiorno a voi e grazie di avermi convocato. Io volevo sottoporre alla vostra attenzione, e soprattutto vista che la vostra trasmissione è una cassa di risonanza nazionale importante, un episodio vergognosissimo. Di cui mi vergogno io da italiano, di un derby tra pulcini. Sì, lo so, l'abbiamo detto all'inizio. Esatto. L'abbiamo detto i all'inizio. Bambini di 8 anni sì, ho anche che detto... vanno a giocare. Io vi ho ascoltato, vorrei che ci fosse quanto più possibile cassa di risonanza su questo tipo di avvenimenti, perché altrimenti quando si parla di avvicinare i bambini al calcio o allo sport... Quando si parla di vivere normalmente, Vittorio... Sì, quando si parla di vivere normalmente, perché insomma non è questione di calcio, di sport, è questione di civiltà delle persone, e se una persona è incivile quando va a vedere una partita di pulcini è incivile credo anche nel resto del vivere quotidiano. E allora poi facciamo tutti i discorsi che vogliamo, alti finché vogliamo e ampi finché vogliamo, su quanto è successo a Parigi, sul terrorismo, sulla nostra sicurezza, sul vivere comune. Cioè, Pier, se uno è un coglione nella vita, lo è anche a vedere una partita di calcio di bambini, non c'entra a fare. Se uno è un idiota nella vita, lo è anche quando va a vedere una partita di calcio di bambini, picchia delle persone e poi grida, negra torna a casa tua la mamma di un bambino. No, assolutamente. Non c'è molte difese. Credo in assoluto che ci siano troppi genitori, perché la mia esperienza, alle partite di calcio. Sì. Io credo che uno degli elementi meno piacevoli sia proprio questo. Cioè, la cosa fondamentale, lo so che poi qua cadiamo nella retorica più banale, per un bambino di 10 anni che gioca a pallone, divertirsi. Non c'è altro, non ci deve essere assolutamente. Altro. È ovvio, è evidente che i calciatori guadagnano un sacco di soldi, diventano famosissimi, per cui a un certo punto della crescita di un giovane calciatore ci può essere anche questo pensiero. Ce l'hanno in testa i genitori e ce l'hanno in testa i bambini, e sarebbe ipocrita pensare che non sia così. Però insomma, il punto di partenza deve essere il divertimento, il godimento, il piacere di deve fare sport normale, no? Cioè, a 10 anni fare sport, che poi uno faccia volta, calcio o golf o un'altra cosa, uguale. E qualche volta insomma diciamo che la presenza dei genitori non semplifica la situazione, nel senso che poi sono tutti allenatori, sono tutti. Abbiamo avuto vari esempi, no, in questi anni di gente che ha messo cartelli per favore ai genitori comodino fuori, insomma, di sì. No, gente no, che ha avuto la forza di dare quello purtroppo è così, ma il problema è che poi sti ragazzini qui gli stessi genitori si ritrovano a casa, e questo è ciò che spaventa di più, oltre che intorno al campo, alla partita, se li ritrovano a casa, cioè questi stessi. Allora, ci sono molti ascoltatori che scrivono a proposito di Belgio-Spagna e dei motivi di questo rinvio. Non è in questo caso una questione, credo, di paura, è una questione di organizzazione e di sicurezza. Filippo Maria Ricci, so che conosce tutta la storia. Buon pomeriggio. Ciao Filippo. Ciao, allora, ciao, facciamo chiarezza, tanto per cominciare. Sì, guarda, a partire da quanto è successo ieri all'arrivo della Spagna, no? Esatto, di quanto si diceva ieri sera, no? Eravamo insieme lì allo spogliatoio, sì. E no, ti ricordo, io dicevo sì, per me bisogna sempre giocare, però mi aveva fatto specie questo arrivo della Spagna super blindato, una grande preoccupazione, cioè teoricamente uno va a giocare, ci possiamo ricollegare anche al discorso di prima dei pulcini, si va a giocare anche per divertirsi. Uno va a giocare, esatto. Uno va a giocare. E lì questi avevano delle facce, anche i giocatori della Spagna avevano delle facce preoccupatissime, insomma. Allora, se devi dare un segnale, per esempio stasera a Wembley, dai anche un segnale forte. Sì, stadio Spagna... esaurito, eh? Esatto. No, dico, forse Belgio Spagna non era tanto un gran segnale quanto una grana. E questo si è trasformato, quella partita si è trasformata in una grande grana per chi aveva, ti ricordi, lo dicevamo proprio ieri sera, chi aveva altro da fare. Cioè, a Molenbeek stavano facendo una mega retata, caccia all'uomo, no? Cercando disperatamente quello che è uno dei presunti partecipanti, siamo organizzatori degli attentati di Parigi, che adesso ci arriva pure la Spagna qui di mezzo per organizzare una partita. E tra l'altro adesso è venuto fuori che questo stesso ricercato sia stato segnalato nelle vicinanze dello stadio, del Re Baldovino. Per cui quando queste devono aver ritenuto la soffiata valida, attendibile, a quanto pare arriva da due che sono stati arrestati nell'ambito degli attentati di Parigi, hanno ritenuto la soffiata valida e hanno detto vabbè. Quindi non si tratta di questioni di altro tipo, si tratta di motivi semplicemente di ordine pubblico. Di ordine pubblico, non si sentivano di garantire assolutamente, ma sacrosanto. Non è che c'è una fuga né niente, vuol dire, però io sono totalmente d'accordo, perché comunque mettere insieme 30, 40, 50 mila persone per una partita di calcio che provoca alla fine solo uno stress in più alla polizia che già no, al limite, probabilmente era abbastanza inutile. No, ma lo era totalmente. In quella situazione, in questo momento e in quel luogo, infatti a Londra stasera si giocherà di fronte a uno stadio tutto esaurito. Sì, già guarda, se la partita fosse stata a Bruges, probabilmente poteva essere diverso, ma era proprio a Bruxelles e a poca distanza da Molenbeek, insomma. Veramente, hai visto mai che davvero c'è qualcuno lì che ha il suo giubbottino di esplosivo pronto no, e decide di andarsi a immolare mentre la gente entra allo stadio? Sì, ma poi al di là di quello probabilmente anche le forze dell'ordine, come dicevi, hanno le mani piene, insomma, in questo momento non è il caso di forzare una situazione in maniera inutile, no Pierluigi? Assolutamente. Cioè, però assolutamente. Questa è la ragione, non è una questione di altro tipo. Tanto per essere chiari, noi poi sono giorni che diciamo che lo sport non si deve fermare, che deve andare avanti, siamo tutti praticamente concordi e lo ribadiamo. Belgio-Spagna è l'eccezione che conferma la regola, cioè è ovvio che lo sport va avanti, non va avanti laddove c'è un'esigenza congiunturale, specifica, che chiaramente si dice che non ce ne può fregare di meno dell'amichevole Belgio-Spagna stasera, perché abbiamo cose più importanti. Però lo sport va avanti, la vita va avanti, gli 80.000 di Inghilterra-Francia, hai fatto bene a sottolinearli, sono un segnale. Il segnale più bello è che c'è stata l'impennata dei biglietti quando questa partita ha cominciato ad assumere un valore diverso, il che vuol dire che poi molto banalmente le persone in un exit poll fra paura e invece coraggio, se vogliamo chiamarlo coraggio o normalità, hanno scelto la normalità. Ma io li capisco perfettamente, è la voglia di esserci in quel io giuro, fossi stato a Londra avrei fatto lo stesso, non so se tu Filippo. Beh, ragazzi, lì oggi il Mirror è uscito con la pagina tricolore, no, in prima pagina, e la Marsigliese, ricordiamo che insomma sono due nazioni che non è che proprio si hanno o comunque storicamente che hanno una rivalità, no, forte, storica, importante. Quello è un tabloid, non è che l'ha fatto il Times, insomma. Per cui questo è lo spirito giusto, però ti dico, era molto la partita di Wembley è altamente simbolica. Belgio-Spagna di simbolico non aveva nulla ed era diventata una grande grana. Io sono assolutamente d'accordo con la polizia e la federazione belga per la sospensione, insomma. E comunque, ripeto, partiamo dalle facce, le facce dei giocatori erano brutte, non va bene, non è questo il caso. Certo, immagini. Ma anche oggi comunque vedere la foto dei giocatori francesi che escono dal campo dopo l'allenamento con gli uomini col mitra, sai, fa impressione, però quelle, insomma, in questo momento sono ragioni. Beh, c'è qualcosa da dimostrare, dai. Sì, è proprio però è una dimostrazione, perché che vuoi che succeda? Cioè, non... No, e poi comunque a me è piaciuto anche il quanto diceva ieri Grandesso. Comunque quello che si voleva far saltare in aria allo Stade de France non è entrato, poi chiaro si è fatto saltare fuori, quindi però ecco, la sicurezza c'è anche, non è che tutto diciamo, non siamo completamente in balia. Però per me il problema, una volta che la polizia belga ha saputo che questo attentatore era in giro ed era lì, ti ho detto, magari non c'è bisogno di entrare in uno stadio per fare una strage. Poi chiaro. No, semmai è più interessante quella, tra l'altro ne parliamo con Filippo che è grande esperto anche di calcio africano, la denuncia dell'ex nazionale del Camerun, che sapete che ha lasciato il Belgio e che aveva denunciato alle autorità belghe un traffico sospetto di armi, di persone nei mesi scorsi, che era stato direttamente ignorato. Io credo che se vogliamo parlare di armi, però allora è chiaro, per me è una delle cose principali, insomma, noi, cioè, l'Italia e tanti altri paesi producono armi e insomma l'analisi lì si fa più profonda, ecco, andiamo oltre, oltre lo sport, questo è uno dei grandi problemi anche proprio della nostra società, no, noi non siamo in guerra però produciamo armi. Beh, sì. Problema non solo nostro del mondo occidentale, certo, ma esatto. Che non è sì, questo andiamo. Non è questo il contenitore adatto per trattare di questi argomenti, anche perché no ma infatti dico giusto, però è così e niente, per cui la Spagna è tornata e la Spagna è tornata, è meglio così. Ma sì, insomma, è molto meglio così. Un'ultima cosa, so che siamo in ritardo sul traffico, ma un'ultima battuta da Filippo. C'è il classico sabato sera 18:30, tutto tranquillo, nessun tipo di preoccupazione. 18:15 è tranquillo, vediamo. È chiaro che c'è tensione, c'è preoccupazione. Perché di nuovo, insomma, è chiaro che è un obiettivo sensibile. E per ora insomma sono grandi misure di sicurezza e basta, altro non si può dire, certo. Si va avanti e speriamo che tutto vada bene. Grazie Phil. A voi, ciao Filippo, ciao. Ci fermiamo per il traffico. Sì, a Pardo, di togliere il telefono da quella custodia per non farlo bagnare, perché non si capiva niente. Tutti convocati. Convocati. Non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere tutto. E se fosse rimasto 1-0 probabilmente ce la saremmo giocata fino all'ultimo minuto. Comprendere il gol così, sinceramente mi sono arrabbiato tanto. Ci sono tanti giocatori che non sono abituati a vivere questa partita, non per dire, ma siamo l'unica squadra nelle prime della classifica e giochiamo con dei ventenni in campo, non sono abituati a viverli come altri. Queste sono oggettività, se poi si dirà che devo trovare sempre qualche scusa lo direte, lo diranno, io lo devo dire, almeno questo lo devo dire. Allora, Antonio Finco è l'unico collega che riesce a parlare con Walter Mazzarri e noi ce l'abbiamo al telefono. Ci vive, ciao Antonio, come ciao. Stai? Ciao Carlo, ciao amico Piero. Sono una coppia di fatto. Sì. Quindi sei anche tu a Manchester a fare l'Erasmus? No, allora guarda, al di là di questa battuta io invece voglio riportare il discorso in termini molto più seri, nel senso che vi assicuro innanzitutto che Walter sta benissimo, si è preso un anno meritato di capir e proprio carico per tornare ad allenare quando si presenterà un'offerta stimolante. Intanto stiamo lavorando assieme anche con lo staff per un upgrading a livello internazionale della sua figura professionale e manageriale. Capite bene come dopo 10 anni consecutivi a gestire tutto ciò che implica essere allenatori in Italia di primo livello a partire dalle pressioni esterne, ha deciso di sfruttare il tempo a disposizione per un arricchimento personale e professionale, che significa migliorare la lingua inglese, caratteristica non strettamente necessaria, tipo Cettino al Tottenham, ma certamente importante per allenare all'estero. Quindi dopo aver valutato varie opzioni ha deciso di prendere casa per un periodo nella zona di Manchester, e quindi non è certamente ospite di una famiglia inglese come è stato riportato erroneamente. Lì viene seguito giornalmente da un professore che lavora anche col Manchester City, è molto bravo. Ma non solo questo ovviamente, perché anche dal punto di vista logistico capite che ha la possibilità di seguire partite di diversi club di Premier. Lì nella zona a portata di mano ce ne sono almeno 8. E devo dire che i feedback di questa esperienza inglese sono estremamente positivi, perché pensate che nonostante, come Pierluigi sta bene, per gli inglesi chi non ha mai giocato, allenato in Inghilterra, figuriamoci poi se non parla la lingua fluently, è visto un po' come un pesce fuor d'acqua, invece Walter ha riscosso subito l'interesse dei media inglesi, tanto che le richieste di interviste si sprecano. Anche... Però ci manca, appunto, le richieste di interviste, manca. Pardo, ci ma manca, bene, ci ma manca. Io, guarda, mi permetto di dire le cose che dico in privato ad Antonio, di staff, dallo stesso mister, quando ci parlo ogni tanto al telefono, è che Mazzarri è un bravo allenatore, appunto. Se uno analizza la carriera di Mazzarri si rende conto che la carriera di Mazzarri è una carriera ad alta performance, non ci sono dubbi. La percentuale delle annate positive è altissima, e poi insomma comunque sia lo scorso anno, almeno per quanto riguarda lo scorso anno, la sua Inter presa da Mancini con tanti soldi spesi ha fatto più o meno quello che faceva lui, forse addirittura peggio in termini di punti, però non c'era feeling, non c'era empatia, l'Inter ha fatto bene, siamo tutti d'accordo. Detto questo, farsi vedere, parlare, comunicare un po' di più secondo me potrebbe essere utile. Il mister da questo punto di vista, Antonio me lo confermerà, è consapevole, cioè sta scritto anche nella sua autobiografia, quelli che sono i suoi punti forti, che sono soprattutto in campo, e qualche area di miglioramento, qualche punto debole che secondo me è legata proprio alla gestione di tutto l'aspetto mediatico, sul quale secondo me deve ancora si sta lavorando da questo punto di vista. Ha deciso di concedersi un gap year anche dal punto di vista mediatico, ma si sta lavorando, vi assicuro, anche da questo punto di vista. La dimostrazione è proprio l'impegno che ci mette e che ci sta mettendo anche in Inghilterra per un suo arricchimento professionale e culturale. E poi non c'è da dimenticare anche la quotidianità, capite che la quotidianità normale in Inghilterra è diversa rispetto a quella che si può fare e che può vivere in Italia. Quindi insomma, da questo punto di vista è un'esperienza estremamente interessante, importante per una persona di 54 anni. Ma non ha voglia di parlare Mazzarri, o meglio ti faccio una domanda, una domanda magari banale o errata, ma potendo, cioè avendone voglia, potrebbe parlare, o è legato ad aspetti contrattuali per cui non vuole intervenire pubblicamente? Beh, c'è sicuramente una parte di un rispetto contrattuale che finirà il 30 giugno del 2016, ma al di là di questo c'è anche, secondo me, il suo desiderio in questo momento di estraniarsi da quella che è stata la realtà che ha vissuto per tantissimi anni e cercare di, come vi ho detto prima, di poter passare del tempo cercando stare per i fatti suoi, insomma. Ecco. Stare per i fatti suoi. Io, se mi consentite, Pier. No, io volevo chiederti proprio di passione, nel senso che poi noi ci siamo sentiti dopo l'intervento del direttore Passone per quel discorso qui. Credo sia un'intervista che il mister ha sentito. C'è qualcosa che volevi chiarire? Guarda, allora io specifico subito che non sono il suo portavoce, quindi il mio pensiero è del tutto autonomo. Tra l'altro, tra di noi parliamo quasi esclusivamente di presente e soprattutto di futuro, quindi il passato ormai lascia il tempo che trova. Però adesso non sarei sincero se vi dicessi che il passato non me lo sono studiato bene, e dopo un'analisi attenta mi sono fatta anche un'idea precisa su quanto è successo all'Inter. Allora, quello che ha affermato proprio nella vostra trasmissione, Fassone ha detto a un certo punto, un passaggio, dice che Mazzarri e Mancini hanno ricevuto da parte della società lo stesso trattamento, in sede di mercato. Allora, probabilmente qui Fassone ha voluto difendere il suo stesso operato e l'atteggiamento del club, ma che a livello di intenzioni di mercato la società ha trattato i due tecnici allo stesso modo, ma è fin troppo evidente, mi viene anche da sorridere. Questo... è evidente a tutti voi che insomma che ci sia un vero abisso tra il calcio mercato e l'era Mazzarri. Guarda, non è difficile, basta andare a contare i soldi spesi e i conti possono tornare, magari non per Mazzarri, certamente per Mancini. Ragazzi, vi ringrazio, grazie Antonio, alla prossima. Grazie a te, Pier, ci sentiamo domani. Sì, 5 secondi, siamo tutti d'accordo, però anche quella è una capacità di un allenatore. Attenzione. di farsi comprare quello, i giocatori. Sì, quello è così. Chiare. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Dunque abbiamo Stefano, un ascoltatore, che scrive un WhatsApp non proprio edificante o incoraggiante. Faccio il dirigente di una squadra giovanile di pallavolo femminile e vi assicuro che, a parte le botte, i genitori sugli spalti passano il tempo a ululare contro gli avversari invece di fare il tifo per i propri figli. Fa piacere invece sapere che la Juventus, ma qui non c'entra il derby, le società non c'entrano marginalmente, è una questione di educazione, però fa piacere sapere che la Juventus sta collaborando con le autorità affinché i responsabili vengano puniti duramente. Marcello, provincia di Livorno, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. No, volevo... Aggiungo, per chiudere il discorso e far capire a tutti, i responsabili vengono puniti duramente di quella della rissa successa domenica a Borgomanero, provincia di Novara, a una partita tra Juventus e Torino, categoria Pulcini, quindi ragazzini di 10 anni. Dica Marcello. Sì, su questo tema io ho un figlio di 13 e noto purtroppo spesso sugli spalti che i genitori ribaltano sui figli le frustrazioni. Volevo fare un altro intervento e parlare un po' di calcio, sì. Su Mazzarri, visto che è mio concittadino. Quasi concittadino. Di Piombino, lui di San Vincenzo. Cerco di essere il più possibile laico, nel senso che non ho un ottimo giudizio di Mazzarri, ma diceva bene Pardo prima, nel mentre quest'estate telefonate Mancini aveva speso 700-800 euro e parlava con Jovetic, sì. Perisic, Mazzarri, l'Inter di Mazzarri è stata 4 mesi, 2 stati fa, a aspettare in Pilà, un bravo allenatore anche questo, ecco. Sì, ma ha ragione. Bravo allenatore è anche quello che è capace di farsi comprare i giocatori, che è sufficientemente convincente nel farsi comprare i giocatori. Alla fine c'è chi sottolinea: appena arrivato Mazzarri spesero 20 milioni per Hernanes, chi ha fatto Hernanes? Che fine ha fatto Hernanes? Lo scrive Ulisse. Sì, ho capito, Hernanes non ha fatto una grande carriera all'Inter, non sta facendo benissimo alla Juventus, però al di là di Hernanes non è che a Mazzarri abbiano poi fatto sti gran regali dal punto di vista dei giocatori, no? Marcello. Sì, però è anche vero che spesso e volentieri era Fassone che andava a parlare quasi alla fine della trattativa, cioè diciamo era proattiva la gestione di Mancini, è stata proattiva, quell'altra sembrava più passiva, ecco, questo è. Credo che lui l'abbia capito, perché poi non è una persona intelligente Mazzarri, questo studio che sta facendo in Inghilterra credo gli sia servito anche a cercare di migliorarsi, e spero vivamente che un allenatore di spessore non dia giustificazioni sulla sconfitta perché è iniziata a piovere, ecco, cioè allenava l'Inter. Sì, non vorrei... No, ma l'abbiamo detto, è un bravo allenatore, è un bravo allenatore che all'Inter non ha fatto bene, ha fatto benissimo al Napoli, che ha fatto un'eccellente carriera con squadre non da scudetto, che però oltre all'inglese deve migliorare dal punto di vista della comunicazione, e stiamo aspettando il momento in cui tornerà a parlare, ma non come scrive qualcuno: voi volete che Mazzarri parli male dell'Inter, patetici. Non vogliamo che Mazzarri parli male dell'Inter, semplicemente ci piacerebbe rivederlo e parlare insieme di calcio, perché i fatti sono abbastanza chiari, no? Quello che è successo all'Inter è abbastanza chiaro, e le cose che stiamo dicendo io e Marcello, sarebbe bello riferire anche a Mazzarri e magari avere una risposta. Tutto qui, poi è chiaro che non parla per ragioni contrattuali, questo lo sappiamo, essendo ancora a tutti gli effetti un dipendente stipendiato dall'Inter. Giuseppe, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono un nonno che accompagna il nipote alle partite, siamo Gorgonzola, che è un bellissimo ambiente, però ho un caso l'anno scorso di una mamma esasperata che continuava a incitare il figlio Kevin, già Kevin mi irrita un po', ma Kevin più violenza. Dopo la quarta volta ho detto: senta signora, la smetta, più violenza glielo dica a suo marito. Giuseppe, però mi dica perché Kevin la irrita un po'? No, No, Kevin, perché i bambini che vengono chiamati Kevin mi fanno venire in mente quel famoso bimbo del cinema americano che... A me vengono in mente Kevin Durant, Kevin Garnett, Kevin McKay, che sono tutti grandi giocatori di basket. Sì, sì, mi viene in mente Kevin, il bambino di Mamma ho perso l'aereo, che è estremamente simpatico. Ecco, quello, ma quello più... Vabbè, però così. No, certo, lei ha fatto bene, certo, lei ha fatto bene perché è inaccettabile dire al figlio più violenza, questo. Ma ha fatto bene, ma come dovrebbero fare tutti quanti sono a una partita di calcio giovanile e sentono o vedono un genitore andare fuori dai gangheri. Purtroppo, lo ripeto, è una questione di sensibilità, di intelligenza, di educazione individuale. Qui non può esserci nessuna legge, nessun intervento da parte di polizia o ministri o decreti. È semplicemente una questione di sensibilità individuale. Allora, io adesso però voglio parlare della dieta dei miracoli. Concentrarsi sulle categorie di cibo di solito evitate, tipo la categoria pannosa, quella colesterolica e quella ciocco eccezionale. Come posso fare per accelerare il tutto, dottore? Un po' di fantasia. Invece di preparare panini con pane, usi strati di mille foglie. Invece di masticare la gomma, mastichi pancetta. Potresti lavarti i denti col frullato. Ehi, hai frequentato la facoltà di medicina all'università di Hollywood Alta, tu? Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 kg, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier dell'università di Yale. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birken. Birkenmeier! Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma c'è più bisogno di fare sacrifici, signore. Oggi, per esempio, in Argentina c'è stato un certo dottor Darvisci, no? Che ha inventato delle pillole che sono a bomba. Cioè, sono le pillole del dottor Darvisci, che mangi quanto te pare e dimagrisci. Questo è lo slogan. Quella di questa sera sarà la cosiddetta psicocena, cioè cena della psiche. Che cos'è? È una forma di digiuno ideata dagli antichi monaci buddisti del VII secolo. Prima o dopo Cristo? Collega, prima o dopo Cristo? Fa lo stesso, stessa cosa. Stessa cosa, VII secolo, insomma, più o meno. Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, perché non c'è, non c'è sta, con cui nutrirsi però fino a sazietà. Ci scherziamo sopra un po', ma l'argomento è interessante, tanto che abbiamo convocato il professor Filippo Ungaro, noto nutrizionista. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Al di là della dieta di Fantozzi del professor Birkenmeier e del cibo che non c'è di Verdone, leggo Higuain che ha fatto questa... In effetti si vede, era un po'... Nelle passate stagioni era appesantito, ha perso 4 kg con pesce e frutti di mare. Non mi sembra un eccezionale segreto questo. Ecco, esatto, appunto. Sono quasi più eccezionali gli spettatori dei film che avete fatto sentire, nel senso che è chiaro che sono quelle cose che se le fa un calciatore fanno notizia, ma altrimenti decisamente non ci sarebbe alcuna notizia. Le proteine del pesce sono ormai da molti anni considerate le migliori, no? In una dieta bilanciata il pesce dà proteine animali, ma rispetto alla carne dà anche una dose importante di acidi grassi polinsaturi omega 3, che sono gli acidi grassi sani, e quindi sì, ci sta ovviamente, no? Ridurre la carne, ridurre determinati alimenti a favore di alimenti che sono tendenzialmente più sani e più magri, mi pare che sia una cosa abbastanza logica. Ma anche frutti di mare, quindi... Sì, anche i frutti di mare sono stati abbastanza sdoganati comunque, nel senso che una volta si riteneva dovessero essere esclusi per via del colesterolo, in realtà vengono considerati oggi dei cibi assolutamente accettabili. Però quello che voglio dire, ecco, dubito che sia questo l'essenza della dieta, poi alla fine queste magari sono le cose di cui si parla, poi la dieta sarà stata costruita con dei criteri insomma un pochino più complessi, mi auguro, e abbia portato ovviamente alla perdita dei chili in eccesso e quindi a un miglioramento perlomeno della componente atletica della prestazione di questo certo, calciatore. Certo, ecco, anche, però, anche perché quando leggo poca carne rossa, tanto pesce e frutti di mare, eliminazione dello zucchero impiazzato da miele e frutta, cioè è una cosa che sa anche un bambino di 5 anni. È no? Bravo, e se la faccio io non è che gioco meglio a calcio. Bravo, e io neanche. Io. Poi come diceva prima Pardo, tutto dipende dalla quantità, perché se io mangio 8 kg di frutti di mare al giorno, dubito anche che mi facciano bene. Assolutamente, la stessa cosa vale per il miele. Diciamo che tra l'altro il calcio è uno di quegli sport dove conta molto il talento e quindi spesso i calciatori possono anche avere, anche calciatori di livello, una dieta che non è perfetta e quindi correggere la dieta porta ad un miglioramento della componente appunto atletica nel calciatore che ovviamente ne trae dei benefici, però da qua a parlare della dieta miracolosa certo, ne passo un po'. No, l'unica cosa che colpisce sono i frutti di mare, a dire la verità, poi quanto al resto mi sembra una serie di banalità messe in fila, ma che di cose che conoscono tutti, più o meno è così. Esatto. C'è anche Messi, che è venuto dalle nostre parti, aveva dei problemi seri, come lei magari saprà, aveva problemi, insomma stava male ogni volta che entrava in campo, aveva crisi di vomito quando addirittura in campo, come è stato testimoniato diverse volte. Con una dieta diversa è stato risolto questo problema. Ma questo lo trovo assolutamente plausibile, nel senso che il fatto che Messi abbia lavorato con qualcuno che ha identificato meglio qual è la dieta più adatta per lui può essere assolutamente così, e chiaramente in questo caso, ammette che ci fossero alla base anche delle intolleranze, delle allergie alimentari, può essere ovviamente che un cambiamento di dieta abbia migliorato la salute complessiva del calciatore, non soltanto l'aspetto della prestazione. Quindi questo diciamo non mi stupisce, ma è una cosa che si fa, diciamo, non con Messi, ma è una cosa che si fa correntemente con i pazienti, questo insomma. Sì. Dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Italiana Anti-Aging, io la ringrazio. Dopo che le ho letto però questo messaggio di Ulisse: impossibile dimagrire a Napoli, ci sono andato 2 volte in vacanza e si mangia troppo bene. Non è solo a Napoli che hanno questo problema. No, non ce l'hanno solo a Napoli, grazie dottore. A voi. Grazie. Arrivederci. Allora, quando è frutti di mare, pesce, poca carne rossa, eliminazione dello zucchero, rimpiazzato da miele e frutta, e vedrete che farete tutti i gol do mundo, come sta facendo Gonzalo Higuain. Stefano da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, volevo fare i complimenti per la trasmissione intanto. Grazie. E poi volevo intervenire riguardo alla lista tra genitori, tra bambini di Juventus Torino. Io ho 24 anni, faccio l'allenatore nel settore giovanile ormai da 9 anni, perché per motivi non ho più continuato a giocare a calcio, quindi mi sono dato la carriera. È passato alla panchina. Ho iniziato in una società del mio paese amatoriale e adesso è da 5 anni che alleno in una società professionistica. E volevo invitare magari a una riflessione, nel senso, non voglio colpevolizzare gli allenatori di Juve, Torino o di chi altra squadra. Però io tante volte ormai, essendo dentro all'ambiente, noto allenatori che si dimenticano che questi bambini hanno 10 anni. E quindi siamo noi allenatori, anch'io qualche volta capita, in primis che alimentiamo genitori a comportarsi in una maniera adeguata. Certo, però è giusto che ognuno faccia la propria parte. Contenersi quando si è allenatori, e si deve capire che i ragazzini sono lì a fare sport e a divertirsi. Ma non credo che questo atto di autoaccusa un po' possa totalmente spiegare tali comportamenti, perché non c'è niente che un allenatore, insomma, che induca i genitori ad azzuffarsi intorno alla partita. Quindi è chiaro, ognuno deve fare il proprio ruolo, però non mi sento di dire la responsabilità è degli allenatori. Purtroppo la responsabilità è di chi educazione non ne ha. Luciano Firenze, buongiorno. Buongiorno gente, voglio rifarci già da questo discorso, che la responsabilità tante volte dei genitori, quasi sempre, però io ho assistito l'anno scorso a Firenze a una partita importante, giovanissimi di elite, dove un dirigente di una società fine partita si è alzato e ha tirato un pugno all'allenatore a tradimento, caduto in terra, steso, portato via in barella all'ospedale, stato due giorni all'ospedale. La federazione, visto tutto e che aveva scritto l'arbitro, 5 mesi di squalifica al dirigente. A buon intenditor, poche parole. Ma poche parole altro che, Luciano. Ma poche parole altro che. Ma possiamo scrivere purtroppo di episodi di malcostume. Potremmo scrivere già una specie di mini volume, no? Ascoltando le telefonate o leggendo gli sms. Ad una partita di rugby di bambini di 8 anni una decina di giorni fa, due mamme si sono prese per i capelli, mi scrive Thomas. Poi ne ho un sacco d'altri su WhatsApp, tanto che non riesco neanche a fare la conta, però ognuno di noi che sia stato ad una partita delle giovanili di qualunque sport, anche qui voglio dire, il calcio non c'entra, c'entrano altre cose, potrebbe raccontare la sua. Anche Aldo alla provincia di Torino, non so se vuol parlare di questo. Eccomi qua, buongiorno, vi ringrazio, buongiorno, per la convocazione. Dica. Sono un povero vecchietto di 70 anni che ormai ne ha visti tutti i colori, prima come calciatore schiappa sui campi di calcio, poi come padre che accompagnava il bambino a giocare a pallone. La cosa più bella che ho visto e ho sentito sono state le parole dell'allenatore del mio figlio. La squadra ideale, 11 orfani. Sì, questa non è nuova, è un po' macabra, ma non è nuova. L'abbiamo sentita... L'abbiamo sentita diverse volte, la possiamo comprendere, non mi piace tantissimo, non mi fa impazzire, però quello che dico io è che insomma, certe volte i ragazzini dovrebbero essere anche lasciati liberi di andare a giocare senza avere qualcuno che poi gli parla della partita, che gli urla nelle orecchie, ma anche che gli metta una minima pressione: hai giocato bene, hai giocato male. Io sono per l'astinenza dei genitori dalle partite dei loro figli. Preferisco che vadano a giocare e che provino ad imparare lì lo sport, l'educazione e magari anche come si sta al mondo. Facciamo sentire un po' di Cassano, sì. Tapiro, ripeto, vicenda di prima. Poi sentiamo Fabio da Brescia. Vicenda del tapiro consegnato a Zenga. E poi Staffelli è andato a cercare anche Cassano e Ferrero. Ma io sono molto molto felice che la Sampdoria ha preso un allenatore super, che può allenare in qualsiasi altra squadra che Vincenzo. Però Ferrero ha fatto sto colpo della Madonna acquistando un allenatore super top. E questo sono felice. Ma non andava d'accordo lei con Zenga? Sono felice di Montella, che l'allenatore. Come sei No, sono felice che la Sampdoria ha preso un allenatore super top. Come sta? Perché abbiamo letto dal labiale l'ultima volta che mentre parlava con Pepito Rossi era giusto una merda. La settimana scorsa sì, oggi sto già molto meglio. Da una settimana, esattamente da 8 giorni, sono in grande forma. È normale, lo devo dimostrare sul campo, però sto bene adesso. E anche qui uso l'espressione di Luciano da Firenze: a buon intenditor, poche parole. Sentiamo che Ferrero. Io dicevo sempre una cosa da ragazzo, quando andavo a fare l'attore, quando ho fatto le grandi cose, e dicevo sempre: non ho mai avuto una cosa normale, non dico facile, normale, perché sono sempre stato lì quando a fare una cosa e poi c'era sempre un ostacolo. Però questo è il bello della diretta, che gli ostacoli si saltano. Io sono grande uomo di trampolino. Capito. Non ho mai avuto una cosa normale. Fabio Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie alla convocazione. Grazie a lei. Allora, io sono stato allenatore, non super top, però qualcosina ho fatto. Con i ragazzini mi hanno dato in mano una squadra che era in difficoltà, sì, e erano carenti sia sul piano tecnico che su quello atletico. Erano 10 anni, 12, e ho cominciato a farli correre, a farli fare, e questi qua dopo 2 o 3 giorni avevano mal di gambe, erano un po', sì, perché non avevano la forma fisica. Lo sai che i genitori hanno cominciato a richiamarmi che facevo... Li faceva stancare troppo? Sì, li facevo stancare troppo, sì, hanno cominciato a lamentarsi dopo 2 o 3 giorni. Ma si facessero i fatti loro mai? No, Sì, è cambiato un po' il gioco della squadra, però all'inizio ho avuto difficoltà e sono venuti a lamentarsi perché li facevo giocare. Ma dico, li facevo correre, sì, e non correvano. Sì, no, sì, i genitori sono veramente... Ecco, volevo solo portare questo testimonianza. Ma sì, ha fatto bene Fabio, io la ringrazio. È chiaro che anche qui ogni generalizzazione è sbagliata, però abbiamo molti, ripeto, potremmo stare qui ore a raccontare certe storie non proprio edificanti. Però tempo non abbiamo più oggi, eh? Peccato, torniamo domani. Giorgio De Luca, nostro autore, Paolo Corleoni in regia, Giovanni Melchioni in redazione. Ciao a tutti.